Bentornati a tutti gli ascoltatori dei podcast di Rivista Militare. Oggi tratteremo un argomento che riguarda il marketing dell'esercito e l'articolo intitolato Un brand in evoluzione è tratto dalla rivista numero 3 del 2021 ed è stato scritto, curato da Francesco Greco. Come le grandi aziende e più in generale tutte le forze armate, l'esercito ha seguito con attenzione quella che possiamo definire la rivoluzione digitale del marketing e di conseguenza ha adattato i propri dogmi all'evoluzione del contesto. Il marketing digitale è portato a contrapporsi a quello di tipo tradizionale o offline, che si avvale di strumenti come la carta stampata, le fiere, la pubblicità e di tutti i mezzi che da anni fanno parte dei piani di comunicazione e promozione delle aziende e delle istituzioni a sostegno dei loro brand, delle vendite e dell'immagine in generale. Il digital marketing invece si svolge prevalentemente online, attraverso siti internet, canali web e social e piattaforme e-commerce. Il termine ha origine da digital market, al quale viene aggiunto il gerundio ing, per indicare una partecipazione attiva da parte delle aziende al mercato digitale, uno spazio online che ospita un tipo di comunicazione pubblicitaria digitale e non convenzionale. Quanto all'orientamento delle campagne di marketing, va sottolineato che il core business dell'esercito, differentemente dalle aziende commerciali, non è rappresentato dalle vendite o dal profitto, quanto dalla necessità di promuovere la cultura militare e favorire il reclutamento. Da lì la necessità per la Forza Armata di dotarsi di organi capaci di muoversi in questi settori specifici. Per questo è oramai consuetudine parlare di recruiting marketing, che ad oggi rappresenta uno dei pilastri della comunicazione istituzionale dell'esercito. Una volta si parlava in termini distintivi di reclutamento come specifica competenza della branca personale e di marketing che rientrava nell'ambito della promozione, ufficio DAP, documentazione attività promozionali. In realtà in ambito Forze Armate queste due discipline trovavano una solida base comune nella legge 25 del 97 sul riordino dei vertici, che sottolinea l'esclusiva competenza dei capi di Forza Armata in materia di impiego del personale e di promozione del reclutamento. Si può dunque affermare che il recruitment abbia da tempo incontrato il mondo del marketing e che da questo abbia mutuato il concetto di customer care istituzionale. Un esempio tra tutti, l'orientamento a trattare i candidati ai concorsi militari come clienti, anche se non acquistano nulla, almeno non materialmente, ma sono interessati a valori, cultura e tradizioni del brand esercito, che di fatto li identifica in senso lato come tali. Il recruiting marketing diviene dunque una funzione strategica, utile ad attrarre, coinvolgere e poi mantenere vivo l'interesse verso la forza armata dei candidati, clienti e anche dei colleghi militari. Per questo l'esercito mette in atto una serie di iniziative volte a far conoscere al pubblico a cui si rivolge le proprie attività e opportunità professionali, stabilendo un primo contatto con gli interessati. Ciò diventa fondamentale per attrarre i potenziali clienti che cliccano su un contenuto, mettono un like sui social, si iscrivono alle newsletter di Forza Armata tramite un infopoint, ma che magari ancora non hanno aderito a un processo di selezione e concorso. Quello su cui si fa leva è la curiosità del candidato, motivo per cui la promozione del reclutamento è inevitabilmente collegata agli sforzi di posizionamento del brand, partecipazione a saloni e fiere, attività di co-branding con aziende di elevata caratura a livello nazionale ed internazionale, e a tutte le azioni outbound, ossia in uscita con messaggi che vanno verso il candidato, per portare sempre più visite al sito dell'esercito e di conseguenza alla pagina dei concorsi, tattiche push, ovvero di spinta. La più recente iniziativa di recruiting marketing è stata la partecipazione per la prima volta con il nuovo brand Esercito Appitti Immagine 2021, svoltosi dal 30 giugno al 2 luglio 2021, con uno stand e capi di abbigliamento dedicati. La partecipazione è stata promossa e sostenuta da Difesa Servizi S.p.A., società in-house del Ministero della Difesa, la cui mission generale ha per oggetto la gestione economica di beni e servizi, anche immateriali, derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero ed il cui asset storico è appunto rappresentato dalla gestione e valorizzazione dei marchi delle Forze Armate. La collezione Upcycling Primavera Estate marchiata Esercito ha proposto capi realizzati con materiali ed equipaggiamenti impiegati nell'ambito di missioni nazionali e internazionali. Inoltre è stata promossa una filosofia ecocompatibile in linea con la recente svolta green delle pubbliche amministrazioni. È così quindi che paracadute in materiale sintetico diventino giacche performanti dall'elevata resistenza e coperte opportunamente trattate e altri materiali destinati a essere accantonati si trasformino in cappotti acquisendo un elevato valore rispetto all'origine. Materiali che altrimenti non avrebbero goduto di una seconda vita, ma che in questo caso creano un profondo legame fondato su valori e ideali comuni, diffondendo un messaggio positivo per le nuove generazioni, rafforzando con contenuti nuovi e sostenibili le campagne di reclutamento.